Pubblicato sulla rivista contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una nuova poesia della poetessa che si firma Mary Forever. O onde, movimento di un corpo infinito di passione, infrangersi nel cuore di chi lo ama. O mare, piccola parola magica, grande meraviglia della natura. O onde, liberi finalmente di guardare oltre. Tra il cielo e il mare, immagine celeste, soavemente, nell'anima di chi non può che apprezzare questo miracolo di vita. Perdersi nei suoi odori perversi, nei suoi dolci profumi, incanto di passioni contrastanti, nei suoi salati sapori. O mare, non ci fu pescatore che non abbia fatto vita sua, lavoro suo, passione propria, raccogliendo quei frutti che portano la sua essenza. O mare, tu sei la mia libertà, farsi schiava del tuo bisogno per sentirmi nuotare in acque tue felici. O mare, mi perderei in un abbraccio intenso, così forte da non lasciarmi più, morire tra le tue possenti braccia. Saresti la mia rinascita ad una nuova vita dove il bene e il male vanno a spasso insieme. O mare mio, puro desiderio, mistero insostenibile, luce o oscurità dei miei sensi, onde infinite di parole. Dirti ti amo, o mare mio, sarebbe banale. Dirti sei la mia vita sarebbe usuale. Allora ti dico, mi rendi felice come una bambina che nell'annegare in te fa si fa donna.